Quindi forse è meglio che tutti prima dicono, anche siete dopo, eventualmente si può concludere. Va bene. Sì. Possiamo dire. Sì, io due o tre cose abbastanza rapide. La prima è questa, che io, come giurista, parto sempre dalla prospettiva del diritto canonico, che comunque riconosco con un po' di approfondimento. Mi sembra che nell'ambito strettamente canonistico ci sia una conferma di quanto diceva il professor Gambasini, concludendo la sua esposizione. La conferma è nella diversa impostazione che al problema del diritto canonico danno Rick Berger, che è professore di diritto canonico fino al 1843, e Nardi, che lo sostituisce dal 43 in poi. E viene fuori abbastanza chiaramente la diversità di impostazione da queste due citazioni. Rickberger dice nel suo manuale: le leggi cesario regge nelle cose pubbliche ecclesiastiche costituiscono il fonte principale del diritto ecclesiastico austriaco. Rispetto ad esse il diritto canonico non vale se non come diritto sussidiario. È l'impostazione che si diceva prima, la pastorale ha un criterio di verifica in che cosa? Nel diritto ecclesiastico, intendo come diritto che emana dall'imperatore. Nardi, che viene dopo il 43, quando questa spinta della scuola viennese è, secondo me, esaurita o in fase di esaurimento, dice invece: essendo la Chiesa sovrana nella sua sfera ed autonoma, le leggi civili non costituiscono una fonte del diritto ecclesiastico in senso proprio. Cioè il diritto ecclesiastico è costituito dal diritto promulgato dalla Chiesa, e questo deve essere il punto di riferimento del pastore d'anime nella sua attività. Mi sembra questa una conferma che anche a livello canonistico, cioè di elaborazione giuridica, viene recepita quella differenziazione che il professor Gambasini individuava nell'ambito teologico della teologia pastorale, e mi pare anche abbastanza logico che, essendo sì sia Nardi che Rickberger formati in facoltà di teologia, la modificazione sia prima avvenuta a livello teologico e poi sia stata recepita dai giuristi che in queste facoltà teologiche si erano formate. Rickberger si era formato in austriaco in Austria, Nardi invece significativamente non mi pare che abbia studiato a Vienna, non ha studiato alla a Frintaneum, no, è stato là. Sì, sì, sì. Era uno di questi discepoli, si è specializzato nella seconda osservazione. Però mi sembra, questo è una domanda, che il modello viennese, il modello del Reichenberger, in campo della teologia pastorale, sostanzialmente sia un fallimento a lungo andare. Cioè, questa è una domanda, non è un'affermazione, in questo senso. Se noi prendiamo come sbocco, che non è arbitrario prendere come sbocco, l'immagine del clero veneto che si ha nel Risorgimento italiano, cioè clero ultramontano da questo punto di vista, allora, e questa è la domanda, mi chiedo se non si possa ipotizzare un duplice fallimento dell'azione della scuola viennese, della scuola austriaca. Da un lato, a livello canonistico, diciamo così, o politico generale, in quanto il punto di riferimento per la scuola viennese era l'imperatore, mentre per gli ultramontani il Papa, indubbiamente. Ma dall'altro, anche a livello pastorale, in quanto la scuola viennese aveva l'immagine di un clero dotto, clero colto. Il parroco del Veneto del Risorgimento mi sembra più il parroco partecipe alla vita del popolo, il parroco capo della casa rurale, il parroco fondatore della cooperativa dei contadini. Cioè la domanda è questa: dove va a finire l'influsso del Reichenberger, della scuola viennese? Scompare, è morto al tempo del Risorgimento, dobbiamo cercare altre radici, oppure in qualche maniera sopravvive? Non so se è chiaro. Sì, sì. Seconda e ultima domanda, e qui mi fermo. Volevo sapere questo: la polemica del Nardi, cioè dei canonisti ultramontani, oltre che antigiuseppinistica, oltre che sul problema dei diritti dell'imperatore, del papa, è antifebroniana, cioè è una riaffermazione del potere del papa su quello dei vescovi. Mentre invece nel manuale di diritto canonico della Rechberger ci sono degli spunti di tipo febroniano, cioè vi è la tendenza di affermare la preminenza del collegio dei vescovi rispetto al pontefice. C'è un analogo influsso febroniano nei teologi dello stesso periodo, cioè nel Reichenberger e negli altri viennesi, oppure è un fatto limitato al diritto canonico? Sì. Ma sul primo punto, quindi modello viennese fallito, dovrebbe forse sfaccettare, ecco, la risposta, ma è soltanto indicativa perché ritengo che si devono fare degli studi appunto più un po' profondi sui seminari, sui quali per il Veneto esistono alcuni manuali, testi, ma di carattere più agiografico, celebrativo e quindi poco significativi per spiegare sono anche certi meccanismi, no? Questo è il primo. Però direi questo, che non è fallito, da quello che finora ho potuto vedere, è fallito il traguardo di fondo, cioè di sottrarre anche la cura pastorale e quindi anche questi preti, sottrarli fondamentalmente dall'ignoranza. Inutile che richiamiamo Rosmini, che è di qua, ma basterebbe pensare anche precedentemente ai muratori per le loro frecciate sulla cultura, meglio non cultura, dei seminari, cioè studi che si stanno facendo, no? Dimostrano a quale punto erano arrivati di decadenza, ma tutti, anche questi libri che si scrivono molto così celebrativi, mostrano la povertà di cultura, la sciatteria, anche la vita, eccetera, igienica, a tutti i livelli, no? Fallimento. Ora, effettivamente, anche per questo controllo, almeno per un quarantennio, dopo la seconda 800 è tutt'altra situazione, anche per mancanza poi di finanziamenti, aiuti, eccetera. La legge del 67 ha avuto delle conseguenze abbastanza pesanti, anche direi pesanti sulla vita stessa, la sopravvivenza dei seminari, proprio sono mancate le doti, i legati, sono mancati altri, sono fonti, per cui c'è stato uno sfascio, uno sfacelo, no? Questo, però non è venuto meno, ecco, questo ideale, questo modello di trasferire, prima di sottrarre la religione anche da forme cultuali molto primitive, pagane, quindi metterle a un livello primo. E poi, secondo, ecco, questo forse è un dato che potrebbe essere utile anche per i teologi che fanno ricerche, uno dei punti chiave della teologia giuseppina, chiamiamola così, era la propedeucità e quindi l'accordo fra di loro delle varie discipline. Cioè, mentre la scolastica era pur valida e robusta, ma alla fin fine finiva in un giro a vuoto tra specialisti con linguaggi anche ermetici attorno a delle parole, anche un'abilità, diciamo, logica, dialettica, una specie di sofistica, ecco, molto vivace, ma per specialisti, qui invece una, ecco, delle intuizioni molto importanti è l'aggancio della filosofia anche moderna con la teologia, seppure poi magari, non so, con un Ginther, un Hermes, ma insomma l'aggancio si è tentato di farlo, se non si, anche un Rosmini, no, ha fatto questa volontà di agganciare, di dialogare con gli uomini del proprio tempo. Questo è un primo elemento. E poi all'interno della teologia una certa, diciamo, anche subordinazione, cioè si parte dalla Bibbia, però non letta soltanto ex autoritate, nel principio ex autorità, e poi dalla Bibbia viene fuori la dommatica, poi giù, ecco, sulla morale. La morale, insomma, regge anche il piedestallo della pastorale, quindi non rimane qualcosa di, così pure anche diritto canonico, non si innesta. Ecco, questo, insomma, è uno delle conquiste che per conto mio non è andata perduta. fino alla fine dell'Ottocento, cioè allora bisogna vedere la seconda Ottocento, un altro discorso. Quando va avanti nell'atomismo, quando le materie chiavi e discipline diventano ancora teologia dogmatica e la morale, no? C'è tutto un, cioè le sistematiche sostituiscono in pieno le storiche hanno, sono declassate, non passano in secondo o terzo ordine, anzi addirittura sono considerate come ancillari, no? della dogmatica e della morale. Cioè si cita se va bene per il dogma, non si citano se non bene. Così pure la storia, insomma la storiografia anche a Rohrbacher, così pure che è girata in tutti i seminari, come quella anche del tedesco Balan prima, è una storiografia di tipo apologetico, polemico apologetico. Quindi si selezionano quei dati, quei fatti che fanno una bella figura alla Chiesa, si strumentano altri fatti. Insomma, mentre almeno per un mezzo secolo, questa esigenza insomma, di un certo rigore, ecco, di un certo rispetto, di un accostamento alla verità con una certa serietà, questo è rimasto. Invece per l'altro problema, clero risorgimentista, eccetera, quello è molto più complesso. Fatto sta che guardando così a colpo d'occhio una situazione siciliana, no, con Garibaldi e una situazione veneta, va bene, non c'è paragone, cioè una specie di deificazione anche da parte dei frati, santone nuovo che è venuto lì in quella terra, ma no, questo è viene fuori nei conventi, non sono i centri, anche le parrocchie sono i centri di queste battaglie del 21, 31, del 48, non si trovano sempre al centro. Qui nel Veneto no. Eventualmente, se battaglia c'è stata, c'è lì un caso molto significativo, anno 59 e 61, poi si ripete di nuovo anni 66, 67, uno di questi perni in senso conservatore era lo Zinelli da noi, Zinelli vescovo di Treviso, no? E d'altra parte ci sono così i preti del Santissimo, una specie di confraternita, una specie di associazione così, di cosiddetti illuminati. Ebbene, allora la polemica si pone a un livello più sottile, ecco, la polemica è contro quel vescovo, il Manfredini, che essendo strutturato in una chiesa che è anche imperiale, volente o nolente, insomma, è anche colui che denuncia il prete che magari in qualche modo dissente oppure si mette contro lo straniero. Non so, questo è il concetto. Quindi la polemica è significativa e si ribalta su questo piano. Troviamo un Volpe scrittore, troviamo un Volpe che non pilota le masse, cioè non fa la questione populista come ne troviamo invece in Regione Sicilia, in questo periodo ce ne sono questi uomini, sono anche della rivoluzione, preti della rivoluzione, qui non ce ne sono nel Veneto, non li troviamo. Li troviamo fino a quando c'è davanti l'ideale neo-welfare. Finito quello, la polemica si rovescia contro i pastori d'anime per due ragioni. O si dice il pastore d'anime, cioè il vescovo soprattutto, inquadrato dentro l'impero, no? Uno Stato, secondo, di nomina imperiale, volente o nolente, è un contaminato. Quindi, dicevo, se questa è la situazione, non c'è altra strada, e questa è la linea rosminiana, non so, cioè non so tanto, Langeri, che è qui anche di Verona, che ragiona in questo modo, allora, oppure un Casara, che è uno dei padri Cavallis, che pure scrive e ragiona in questo modo. Quindi non c'è altro che una purificazione come separazione. Cioè, sono tendenzialmente separatisti verso la Chiesa, no? E quello è il loro modello. Così pure, questo separatismo per loro è anche l'ideale del Papa con la sua terra. Cioè, il Papa finalmente divida quella che è la sua tiara dalla corona. Ed è interessante che alcuni di questi insegnanti, Colauzzi, Fagno, eccetera, quando devono votare, e lì c'è una proposta di un pannello, no, che insiste sulla coincidenza, perché difendendo, in sostanza Pannella era dentro questa idea, diceva, se noi difendiamo la fusione, o se si vuole l'armonia, se si vuole una fusione, la confusione dei due elementi, sussistendo tutti e due sussiste anche la religione. Questo era, cioè, sussistendo in pratica il confessionismo, sussiste anche la religione, come fatto pubblico e poi anche come fatto privato, no? La legge come anche elemento pedagogico, educativo. Questo è un po' il ragionamento. Quindi anche nel Papa, no? Se noi rompiamo quell'anello, dicevano tutti i discorsi del balance, sono questi, rompiamo questo anello di vertice, state sicuri che giù. Se noi rompiamo l'altro anello alla base, cioè noi facciamo una politica di separazione religione e Stato, in questo caso impero e Chiesa, rompendo quell'anello, state sicuri che si rompe anche all'altro e ne viene una catastrofe, erano pessimisti verso il futuro della Chiesa. Invece questi dicevano no, addirittura noi rompendo, facendo la separazione, ne viene fuori una religione meno contaminata e quindi una religione che si pone su livelli, diciamo, propositivi anche più credibili. E allora viene fuori un altro discorso. Viene fuori il discorso che questi preti, insomma, trevisani, no, che vanno in Duomo, e il vescovo aveva proibito di portare il fes, insomma, noi diremmo, era il berretto dei rivoluzionari, no? E poi le barbe, tutte queste cose. Vanno in chiesa tutti col berrettino, durante il suo, dentro in tasca, quando fa la predica se lo mettono su e cantano, non so, un inno, non so che cosa, eccetera. Poi la sassaiola fuori contro questo vescovo, così è successo anche a Cenere, così è successo a Matadini a Padova, hanno buttato le bombe sotto il coso di Scovado, eccetera. No? Ora, perché queste cose qui, loro dicevano, perché noi preti siamo con le popolazioni e perdiamo le popolazioni? Questo viene fuori. Il discorso, insomma, a cui sono arrivato, adesso bisogna andare avanti ancora in questa analisi. Non c'è ancora, ci sono così, anche Briguli ha fatto qualche lavoro, io pure ho lavorato, ci sono parecchi adesso i registri, ma che però sono già conosco, siamo di qui a parlare una volta, su quei registri ci sono molti dati, ma uno studio di storia della Chiesa su questi problemi, ma con delle risposte documentate ancora non c'è, però quello che si può tirare fuori è che non erano tanto per Garibaldi, casomai il discorso questo lo faceva Volpe, ma lo faceva allora, diceva, benissimo, tra i due mari, volete la Chiesa, volete uno Stato confessionalizzato, volete una Chiesa statalizzata? No, Volpe diceva. Allora, lui che era stato nella cancelleria di Belluno e vedeva le pratiche, come cancelleria doveva vidimare tutte le pratiche, no, è necessario, è un atto dovuto, il vescovo non può mandare via una pratica se non c'è il cancelliere che timbra. Allora lui diceva, tra i due, benissimo, allora, volete la Chiesa riformata in questa maniera? Allora venga avanti Vittorio Emanuele, cioè è meglio una Chiesa agganciata con un regime costituzionale, no, questo è il suo discorso, che non una Chiesa agganciata con un regime assoluto, dittatoriale, non so, questo è il regime assoluto, se volete stare alla pari, no? Oppure, come De Marchi ed altri dicevano, oppure anche lui era radicale, benissimo, allora una Chiesa pienamente libera, diciamo, da qualsiasi aggancio. Invece De Marchi ed altri, anche Colauzzi, Fanni e tutta questa gente, loro erano più per una separazione, anche Pertile stesso, Giambattista, non sono due Pertile, ebbene anche lui ragionava, anche questi qua ragionavano in questa maniera. Andiamo verso una ripartizione, così che si sappia quello che è di Chiesa e la Chiesa, eccetera, eccetera, e portarono avanti. Ma nel clero parrocchiale il discorso era un altro. Erano, io ho fatto anche la rassegna a Padova, ma si può fare per tutto il Veneto, perché ci sono elencati quei preti che hanno scritto e hanno fatto battaglie in quegli anni 59-62 e poi anche 66, così ci sono atti in archivi pubblici, anche archivi patriarcali e vescovili. Allora viene fuori, si può fare la statistica, io ho fatto per Padova la statistica, cioè, non sto mica qui, c'è un altro volume che dove ho scritto queste cose, e quello poi dove è una dominazione austriaca. In quel volume, no, ho messo tutto l'elenco ed è curioso che i preti che insistono per il superamento di una chiesa statalizzata, di un confessionalismo statale, no, si trovano anche lungo le direttrici del maggior movimento anche di mercato, di commercio, eccetera. Perché ho tentato, no, di rapportare questi preti anche all'ambiente, come mai, insomma, a Piove ne trovate, a Valdobbiate ne non trovate. E allora ho tentato di, ho fatto la strada di, che c'era allora, no? La strada di allora, i mercati, l'interscambio, e si vede che dove, insomma, passavano con le merci, i carri, passavano anche uomini, passavano idee, c'era movimento, allora questi preti intuivano, insomma, che questa chiesa, che anche se era un'apparenza, anche se era parente, no, magari di fatto il singolo prete non era affatto schiavo, diciamo, non era affatto servo dello Stato, no? Non è che denunciasse i propri parrocchiani, insomma, di fatto, perché doveva far così anche, era, la sua anagrafe era un punto di riferimento per tutti, insomma, in tutti i livelli, no? Capite? Terribile per sé come responsabilità, anche se di fatto, però c'era la struttura, c'era la legge, era inquadrato così, appariva così, ed allora uno Zinelli che invece sparava proprio parole molto forti, no? L'idea, portava avanti l'idea che un confessionismo era l'ottimum, per quelle ragioni che vi ho detto, no? Perché se cade un anello, tutti gli anelli si spezzano, quindi si versa una specie di catastrofe, e allora questi preti si fanno rivolta contro i vescovi. È un fatto tipicamente veneto, che non c'è proprio in Sicilia. Non c'è. La ragione è che questi avevano, insomma, la paura, insomma, sentivano questo, il fatto di dover discutere con della gente che sentivano questo stato moderno, lo sentivano più che negli aspetti, anche se vuole, positivi, perché con gli Asburgo si fanno i consultori medici nei singoli paesi, con gli Asburgo si combattono certe malattie nel vaiolo, eccetera, tutte queste cose, no? Tante operazioni, con gli Asburgo incomincia un'amministrazione anche tributaria di una certa severità, però bisogna tener conto delle guerre che ci sono state, il prezzo. E poi, ultimo, per il Veneto, la cosa più pesante, che era stata lasciata nella sua vocazione, che non era sua per secoli, dal secolo XV, cioè una vocazione agraria rurale, mentre la sua è una vocazione tipicamente marittimo-commerciale. Bisogna tener conto che da noi, nel Veneto, non ci sono stati i riformisti che noi troviamo nel Settecento nella Lombardia. Non li troviamo. E di conseguenza l'impatto era con una situazione di povertà, di miseria, e per di più il parroco appariva, no, anche se non lo era, e appariva come agganciato a quelli stessi che poi attraverso l'anagrafe andavano a fare la coscrizione militare, perché l'anagrafe era quella del parroco, non c'erano altri anagrafi fino agli anni 60. È terribile questo, ma no? Quindi per l'anagrafe tributaria, no? Che sono due punti chiave, no? Cioè tributi e soldati, e evidentemente passava attraverso il parroco, non solo, ma anche in chiesa, come pubblico funzionario, doveva dire c'è questo, c'è questo, c'è questo, a nome di chi? Non tanto del Papa, di Domine Dio, a nome di uno Stato, non so se è questo il discorso. Quindi diciamo, un paludamento, un rito, un servizio a Dio che veniva facilmente contrabbandato, e allora questa gente dicevano sì, tolleriamo questo fatto, però che ci sia, come Zinelli diceva, una giustificazione anche teologica, questo non lo sopportavano. E allora la battaglia è contro quello. A Padova la baruffa, cioè tutto il seminario, eccettuato uno o due, maggioranza del seminario, questi insegnanti di teologia della facoltà teologica, pur essendo venuti dal Trentaneum, poi ho detto, tutti questi preti messi nei punti gangli dello scambio commerciale, no? Dell'ambiente bene, tutti sono contro Manfredini, e non ha potuto più fare la visita pastorale. Si è tappato dal 56, cioè, dal 59, 59, 59, si chiude nel suo vescovio, ogni tanto c'erano delle bombe sotto che faceva traballare qualche cosa, però non è più potuto uscire, si è creato un ausiliario, questo andava in giro per le parrocchie, trovava i preti, i malati, si perdeva qualcuno, cioè, ma lui non è dovuto più uscire, è rimasto dentro, dal 59 fino all'82, cioè fino al 66, 67, non più una predica in chiesa, è finito, ma esattamente c'era questo, credo, e sarebbe interessante, ecco, andare un po' più a fondo di questo, di questa vicenda, ma comunque viene fuori questo tipo, almeno in modo orientativo. Adesso bisogna andare un po' più avanti, ecco, scavare un po' di più, vedere caso per caso. L'esame di questo tramonto, diciamo, del giurisprudismo farebbe pensare anche che però forse nella storiografia tradizionale, quella che conosciamo, si sia proprio accentuato troppo il